si riempie uno dei nostri guai. Se tu rinunci adesso che sono segni indelebili ormai, graffi nell'anima che non guariscono mai. Se tu rinunci adesso che siamo qui al confine tra vuote si riempiono dei nostri guai.